Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei, Epistola agli Ebrei, capitolo 12. Leggerò una parte di questo capitolo, precisamente a partire dal versetto 4. Capitolo 12 degli Ebrei, a partire dal versetto 4, così è scritto: voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato e avete dimenticata l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli. Figliol mio, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliolo che Egli gradisce. E a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose, Dio vi tratta come figlioli, poiché qual è il figliolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina, della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti, non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere vita? Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esse esercitati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuor di strada, ma sia piuttosto guarito. Procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, sicché molti di voi restino infetti, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Poiché voi sapete che anche quando più tardi volle ridare la benedizione fu respinto, perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Questa mia predicazione verte sulla disciplina del Signore, della quale non bisogna fare poca stima. Ecco, questo è un comandamento che è bene ribadirlo con forza. Sì, è proprio un comandamento: non far poca stima della disciplina del Signore. Dunque esiste una disciplina, il nostro Dio è un Dio che ci disciplina. Notate che queste parole sono rivolte ai figlioli di Dio: figliol mio, non far poca stima della disciplina del Signore. Ci tengo da subito a dirlo che qui appunto questa esortazione riguarda i figlioli di Dio, perché non tutti, voi sapete, sono figlioli di Dio. Ci sono anche i figlioli del diavolo. Quindi qui questo comandamento non è rivolto ai figlioli del diavolo. Sapete, molti non credono che esiste il diavolo. Anche molti evangelici non ci credono che esista il diavolo, infatti non ne parlano mai. E men che meno credono che esistano dei figlioli del diavolo. Considerate invece che la Sacra Scrittura parla molto sia del diavolo e anche parla abbastanza dei figlioli del diavolo. Esistono i figlioli del diavolo. Gesù ne ha attestato l'esistenza e Gesù ebbe anche a rimproverare i figli i figli del diavolo ai suoi giorni, infatti rimproverò quei giudei che lo odiavano e che lo calunniavano e che lo volevano uccidere, li riprese e li chiamò progenie del diavolo. Infatti gli disse: voi siete progenie del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quindi questa distinzione io ci tengo a farla, perché oggi c'è l'idea che tutti gli uomini sono figli di Dio. È una falsa dottrina quella che sostiene che tutti gli uomini sono figlioli di Dio, perché figlioli di Dio sono solamente coloro che hanno la fede nel Signore Gesù Cristo. Infatti è scritto in Giovanni: è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi i figlioli di Dio sono solamente coloro che sono nati da Dio, quindi che credono che Gesù è il Cristo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Gli altri non sono nati da Dio. Gli increduli non sono nati da Dio. Gli increduli, cioè coloro che non credono nell'Evangelo, non sono figlioli di Dio. Questo è molto importante, fratelli nel Signore, ricordarselo, perché oggi c'è una sempre più diffusa idea, appunto, che tutti gli uomini sono figli di Dio, per cui alla fine Dio salverà tutti, dato che tutti sono figlioli suoi. Ma non è assolutamente così. Quindi vi metto in guardia, colgo l'occasione per mettervi in guardia da questa eresia distruttiva che sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio, eresia distruttiva che viene insegnata non solamente dalla Chiesa papista, ma anche da tante chiese evangeliche, comprese chiese pentecostali. Ormai c'è questa idea della religione unica mondiale che si sta facendo sempre più strada, per cui è indispensabile per coloro che promuovono la religione unica mondiale diffondere l'idea che tutti gli uomini sono figli di Dio, quando, lo ripeto, non è così. Allora questo comandamento è rivolto ai figlioli di Dio, a noi. Noi siamo figlioli di Dio per la grazia di Dio, per la volontà di Dio, egli infatti ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. È stato il Signore che ha voluto generarci, rigenerarci, quindi non è dipeso da noi, ma è Lui che ha voluto farci diventare figlioli suoi. Noi siamo figlioli di Dio. Figliol mio, non far poca stima della disciplina del Signore. Quindi questo comandamento va osservato, fratelli, come tutti i comandamenti di Dio. Non dobbiamo sottostimare la disciplina del Signore, perché la disciplina del Signore ha un grande valore, è molto importante. E dice anche: non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Altro comandamento rivolto a noi figlioli di Dio: non ci dobbiamo perdere d'animo quando il Signore ci riprende. Vedete dunque? E la ragione è questa: perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce. Queste parole sono di grande consolazione per tutti noi, perché sappiamo che il Signore ci impartisce la sua correzione perché ci ama. È proprio perché ci ama che Lui ci corregge. Quando tu ami qualcuno, tu lo correggi. Facciamo un esempio. Un padre corregge i propri figlioli. Perché? Perché li ama. Chi non corregge, invece, i propri figli è un padre che odia i propri figli. Chi risparmia la verga, dice la Sapienza, odia il suo figliolo, lo odia, ma chi l'ama lo corregge per tempo. Fratelli nel Signore, ascoltate, la parola di Dio è verità e essa non mente, perché è impossibile che Dio abbia mentito. Oggi si sta diffondendo sempre di più, anche in mezzo alle chiese, l'idea che i figli non vanno corretti. Vanno lasciati crescere così, come vogliono. Non è così. I figli vanno corretti. Coloro che amano i propri figli, infatti, li correggono per tempo. Perché guardate che un figlio lasciato a se stesso, proprio la vergogna, è la vergogna dei propri genitori. Quindi, un padre ama i propri figli. E li corregge dunque, li corregge per tempo. E il Signore, il Dio che ci ama di un grande amore, egli fa proprio questo, ci corregge. Quindi se ci corregge vuol dire che abbiamo bisogno di correzione, abbiamo bisogno di emendare determinate nostre vie, abbiamo bisogno di cambiare in meglio. Abbiamo bisogno di abbandonare certi modi di parlare, certi modi di ragionare, certi modi di agire. E allora il Signore, sapendo tutto questo, ci corregge. Nel suo amore ci corregge. Quindi la correzione del Signore non va presa come una manifestazione di odio nei nostri confronti. Assolutamente. È proprio il contrario. La correzione del Signore è una manifestazione nei nostri confronti del suo amore. Il Signore ci ama. Ecco dunque perché non ci dobbiamo perdere d'animo quando Lui ci riprende. E poi flagella il Signore, questo appunto fa parte della risposta, no? Della ragione, per cui non ci dobbiamo perdere d'animo quando siamo da Lui ripresi. Perché il Signore flagella ogni figliolo che egli gradisce, termine duro, però questo è, flagella. Voi sapete che Gesù fu flagellato? Sì, Gesù fu flagellato. Fu flagellato, appunto, voi sapete che prima di essere crocifisso Gesù fu flagellato. E la flagellazione era molto dolorosa. Ebbene, noi appunto sappiamo che il Signore flagella ogni figliolo che egli gradisce. Quindi questa è la ragione per cui non ci dobbiamo perdere d'animo, fratelli, quando siamo ripresi dal Signore. Dice lo scrittore che a scopo di disciplina che abbiamo a sopportare queste cose. Il Dio ci tratta come figlioli. Il Dio ci tratta come figlioli, siamo suoi figlioli. E appunto, qual è il papà che non corregge il proprio figlio? Dunque, noi non siamo privi di quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte. Ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura. Dice, se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli. Allora, vedete cosa dice la Scrittura? Tutti hanno avuto la loro parte di disciplina, tutti i figlioli di Dio, in tutte le generazioni, hanno avuto la loro parte di disciplina. Perché siamo appunto figlioli di Dio e quindi noi dobbiamo essere riconoscenti al Signore per la sua disciplina. Non dobbiamo adirarci nei confronti di Dio, nella maniera più assoluta. Ma ci dobbiamo sottomettere a quella che è la sua volontà, riconoscendo che Lui appunto ci corregge nel suo grande amore e ci corregge appunto per il nostro bene, per il nostro bene. Infatti dice la scrittura per l'utile nostro. Quindi se il Signore ci corregge per l'utile nostro, vuol dire che noi da questa disciplina ne abbiamo, diciamo, abbiamo dei benefici, ne traiamo dei benefici. E come infatti ne traiamo di benefici noi? Dice, egli lo fa per l'utile nostro finché siamo partecipi della sua santità. Dio è santo e ci ha comandato di essere santi in tutta la nostra condotta. Dice, siate santi perché io sono santo. Quindi Dio vuole che noi procacciamo la santificazione e ci corregge proprio affinché noi ci comportiamo in maniera santa nel suo cospetto e quindi affinché abbandoniamo le vie che a lui non piacciono. Ecco perché dobbiamo sempre esaminare noi stessi, esaminare le nostre vie davanti a Dio e abbandonare, se c'è qualche via malvagia, ingiusta, dobbiamo abbandonarla. Ora, se invece noi facciamo finta di niente, il Signore ci correggerà, ci flagellerà, perché il Signore non tollera l'iniquità. Egli vuole che il suo popolo si santifica. E quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle nostre vie, perché il Signore è un fuoco consumante, il Signore è un vendicatore. Quando Paolo spiega ai santi di Tessalonica qual è la volontà di Dio, ascoltate che cosa dice. Capitolo 4 di Prima Tessalonicesi. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Dunque, qui l'Apostolo Paolo ci dice qual è la volontà di Dio, che ci santifichiamo. E poi prosegue, vedete? E dice che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, quindi questo che cosa significa? Che coloro che appunto si gettano alle spalle la volontà di Dio, non vogliono fare la volontà di Dio, subiranno la vendetta di Dio. La dura disciplina del Signore, la dura disciplina del Signore che naturalmente fa male, naturalmente il Signore è giusto e quindi le sue punizioni, perché di punizioni stiamo parlando, sono proporzionate alla ribellione, che ricordiamoci sempre che il Dio è giusto sia quando premia sia quando punisce. Dunque, chi sprezza questi precetti, dice Paolo, non sprezza un uomo, ma quell'Iddio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi badiamo a noi stessi e non sprezziamo i precetti che o comandamenti che l'Apostolo Paolo ci ha dato per la grazia del Signore, altrimenti subiremo le vendette del Signore. Lo so che non è popolare parlare di vendette, si diventa molto impopolari quando si parla delle vendette del Signore, ma io ne parlo ormai da molti anni, perché le vendette del Signore sono una realtà. Dio è un vendicatore, a lui appartiene la vendetta. E quindi in mezzo alla Chiesa, in mezzo al suo popolo, il Signore esercita le sue vendette. D'altronde c'è scritto che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Se è un vendicatore vuol dire che fa le sue vendette. E le sue vendette sono giuste, ricordiamolo sempre questo, perché la giustizia di Dio veramente è eccelsa. Il Signore ama la giustizia. E quindi, vedete, fratelli nel Signore, la Scrittura ci ammonisce del continuo a temere Dio, a osservare i Suoi comandamenti, perché Dio è santo, Dio è un giusto giudice, Dio è un vendicatore, Dio quindi punisce. Dio punisce, fratelli, Dio punisce il suo popolo. Notate che lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Quindi è utile parlare della disciplina del Signore, perché la disciplina del Signore alla fine contribuisce alla nostra edificazione. Noi veniamo edificati tramite la disciplina del Signore, perché miglioriamo, progrediamo, andiamo di valore in valore. E questo veramente deve essere sempre il nostro obiettivo, quello di progredire. Quindi Dio lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Certo, lo ricorda lo scrittore agli ebrei, ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia. Certo, è proprio così. Effettivamente quando si viene disciplinati dal Signore si piange, si è rattristati, infatti dice, vedete, che per il presente, sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia. Quindi di tristezza, beh, effettivamente è vero, la correzione, la riprensione del Signore, diciamo, causa tristezza, ma ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così: la tristezza, secondo il Dio, produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi. Quindi è vero, il Signore quando ci disciplina ci rattrista, ma ricordatevi sempre della tristezza secondo il Dio, per mezzo della quale noi veniamo contristati. Questa tristezza produce un ravvedimento, quindi un cambiamento di mente che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi. Cioè non c'è mai da pentirsi del ravvedimento che è prodotto dalla tristezza secondo il Dio. È proprio così. Chi ha sperimentato la tristezza secondo il Dio sa che è proprio così. Produce un ravvedimento che mena alla salvezza del quale non c'è mai da pentirsi. Non c'è nessuno che sia stato contristato dal Signore e quindi si sia ravveduto dalle sue malvagità, dai suoi peccati, che si sia pentito di essersi ravveduto. No, non ce n'è uno. Ma perché quando appunto avviene il ravvedimento, poi uno si rallegra, perché dice che la disciplina rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esse esercitati. Sì, perché poi appunto questo ravvedimento che mena alla salvezza, questo ravvedimento è portatore di pace, di una grande pace. Dice, è stato bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Quando infatti poi tu, afflitto da Dio, impari i suoi statuti, dice, è stato un bene. Sì, è stato un bene che il Signore m'abbia afflitto, che m'abbia disciplinato, che mi abbia percosso, perché ho imparato. Ho imparato. Infatti si impara molto dalla disciplina del Signore. Vedete quanto il Signore veramente ci ama? Il Signore, vedete, non ci lascia a noi stessi, ma ci corregge, ci riprende per il nostro bene. E quindi, vedete, oggi non possiamo anche non capire il perché di determinate cose che Dio usa naturalmente per disciplinarci. Ma poi dopo lo comprenderemo. Poi lo comprendiamo. Ah, e quando lo comprendiamo diciamo: Signore, grazie, grazie per avermi ripreso, grazie per avermi corretto, grazie per non avermi permesso di proseguire per quella strada sbagliata, o grazie per avermi dato il ravvedimento, avermi fatto abbandonare determinati pensieri, modi di vedere certe cose. C'è sempre da ringraziare il Signore, fratelli, sempre da ringraziare il Signore. Fino a che avremo un alito di vita, dovremo rendere grazie a Dio sulla faccia della terra, perché veramente il Dio ci ama di un grande amore, il Dio ha cura di noi, e ha cura di noi anche correggendoci, flagellandoci, perché appunto ci vuole partecipi della sua santità. Ma ci sono tanti che sostengono che Dio non castiga i suoi figlioli. Certo, e d'altronde sono quelli che vogliono piacere agli uomini anziché a Dio, e che sanno che i ribelli amano sentirsi dire le cose piacevoli. Nessun male vi incoglierà, non vi preoccupate, il Signore vi accoglie così come siete, come per dire: fate tutto quello che vi passa per la testa, perché ormai il messaggio che viene fatto passare dai pulpiti è proprio questo: comportatevi come se Dio non esistesse, siete liberi, fate tutto quello che volete, quindi peccate sempre di più, perché la verità è questa. E quindi diteci delle cose piacevoli, dicono i ribelli, quelli che appunto non vogliono che il predicatore gli metta davanti ai suoi occhi il santo di Israele. Diteci delle cose piacevoli, e appunto gli dicono delle cose piacevoli a sentire, ma cose false. Nessun male vi incoglierà, il Signore vi benedirà. No, il Signore vi punirà invece. Se vi abbandonate al male, il Signore vi punirà, vi avvilirà. Quelli che lo disprezzano vengono avviliti da Lui, non avrete scampo. Ascoltatemi, fratelli nel Signore. Il Dio veramente è tremendo, è cosa spaventevole cadere nelle sue mani. Nessuno di voi pensi di potersi farsi beffe di Dio, ma non lo pensate, il Signore vi stritolerà, ma vi stritolerà se voi pensate di potervi farvi beffe di Lui. Guardate che il Dio finora ha sempre esercitato i suoi giudizi in mezzo al suo popolo, colpendo veramente tutti coloro che andavano colpiti. Perché? Perché Dio è giusto. Nessuno si può fare beffe del Signore. Il nostro Dio è santo. E quindi ci sono molti che dicono: no, ma Dio sotto la grazia non castiga. Come non castiga? Castiga e come? E tra quelli che Dio castiga ci sono quelli che dicono che Dio non castiga. Sì, e noi lo vediamo, noi lo vediamo questo. L'abbiamo visto. Sì, perché dicendo che Dio non castiga stanno offendendo Dio, stanno oltraggiando Dio. Stanno dicendo una menzogna su Dio. Sapete, i bugiardi dicono le menzogne. O sapete che i bugiardi dicono le menzogne? Ne abbiamo conosciuti di bugiardi nel corso della nostra vita, proprio è più forte di loro. Proprio sono dei bugiardi, progenie della menzogna. Cioè, praticamente, se leggono A, dicono che hanno letto B. Se leggono C, dicono che hanno letto D. Se vedono una cosa diritta, riferiscono che era storta. Se vedono una cosa storta, riferiscono che era diritta. Il giusto lo contristano con, con delle menzogne. E invece l'empio gli fortificano le mani affinché non si converta. Insomma, i bugiardi, che sono una razza di gente molto diffusa in mezzo alle chiese, i bugiardi dicono menzogna, ma dicono menzogna non solamente contro gli uomini, contro loro consimili, ma anche contro Dio. Ci sono molte persone che diffondono menzogne su Dio. Ora, vi faccio una domanda. Ma se qualcuno appunto sparge delle menzogne su vostra moglie, sui vostri figli o su voi stessi, diciamo, non credo che appunto voi vi compiacciate in quelle menzogne, no? Perché le menzogne sono menzogne, voi le rigettate. Ora, pensate alle menzogne che i bugiardi, e ce ne sono tanti dietro i pulpiti, dicono contro Dio. Ma ne dicono così tante. Il Dio non castiga, è una delle tante, ma ce ne sono tante altre. Dio non parla tramite visioni e sogni, Dio non fa miracoli. Per esempio, il Dio dicono che ha bisogno, ci sono quelli, i bugiardi, che dicono che Dio ha bisogno del permesso dell'uomo per operare sulla terra, addirittura pure questo si sono inventati. E poi ci sono quelli che dicono che Dio è ingiusto, che Dio è malvagio, che Dio, insomma, alla fine ci sono veramente tanti sulla faccia della terra che dicono bugie anche contro Dio. Allora, una di queste bugie appunto è questa, no? Che Dio non castiga i suoi, quando invece la Sacra Scrittura parla dei castighi di Dio. Il giudizio da cominciare dalla casa di Dio, non lo dimenticate mai questo. Voglio ricordarvi che il Signore, quando mandò nella lettera che il Signore fece scrivere e mandare all'angelo della chiesa di Tiatiri, ci sono scritte queste parole: ecco, io getto lei naturalmente è Jezebel, che appunto non voleva ravvedersi della sua fornicazione, dice: ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. Cioè, vedete, chi erano coloro che appunto commettevano adulterio con Jezebel? Erano dei servitori del Signore. Infatti, ed è Gesù che parla, dice: ho questo contro a te, sta parlando all'angelo della chiesa di Tiatiri, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Vedete dunque, questi servitori del Signore erano servi di Gesù, attenzione, quindi figlioli di Dio. Cosa facevano? Commettevano fornicazione con Jezebel. Non fornicazione spirituale, come vi dicono altri bugiardi, No, proprio fornicazione, diciamo, come atto carnale, appunto, l'atto carnale illecito. Quindi, costoro commettevano fornicazione con Jezebel. Cosa disse il Signore? Che, appunto, li avrebbe gettati in una grande tribolazione se non si sarebbero ravveduti delle opere d'essa. Quindi, vedete, come se il Signore ancora oggi minaccia veramente di gettare in tribolazioni, in grandi dolori, coloro che appunto si danno al male in mezzo alla sua Chiesa. Il Signore naturalmente manda i suoi messaggeri, manda i suoi avvertimenti per avvertire coloro che si sono dati alla ribellione, al male. Gli dà tempo per ravvedersi, ma poi, se non si ravvedono, il Signore scatena la sua ira su di loro. Scatena la sua ira su di loro. Quindi Dio, ancora oggi, sotto la grazia, è lo stesso Dio che puniva ai giorni di Elia, ai giorni di Eliseo, ai giorni di Isaia, di Ezechiele, che puniva il suo popolo, il popolo che Dio ha preconosciuto, gli israeliti. O ci siamo dimenticati delle punizioni che Dio inflisse agli israeliti, ai giorni dei profeti? E il popolo di Israele non era forse il suo popolo? Prima della venuta di Gesù, leggete quando il Signore si rivolgeva al suo popolo tramite Isaia, Geremia, Ezechiele e altri profeti. Non era forse il suo popolo? Il popolo che lui si era appartato, il suo tesoro particolare, il popolo che lui si era scelto tra tutti i popoli? Non era quel popolo che il Signore aveva tratto con mano potente dall'Egitto? Era quello il popolo, no? A cui aveva dato la legge, Aveva rivelato i suoi oracoli. Ebbene, quando il popolo si dette al male, ai peccati, il Signore gli mandò i suoi profeti ad avvertirli affinché si ravvedessero, affinché si convertissero dalle loro vie malvagie. Ma essi si fecero beffe dei messaggeri di Dio. Essi non vollero prestare attenzione agli avvertimenti solenni che quei santi uomini portavano da parte di Dio al popolo. Non vollero, si rifiutarono, indurarono la loro cervice, indurarono il loro cuore. E Dio che cosa fece? Mandò ad effetto quelle minacce che aveva appunto rivolto al popolo, le minacce di punirli, e infatti punì poi gli israeliti, li punì, se voi leggete il profeta Geremia, vedrete come il Signore punì Gerusalemme per l'iniquità, per la malvagità, chiamando da una nazione lontana un potente esercito, l'esercito dei Caldei, ossia dei Babilonesi, che quando arrivò poi, distrusse il Tempio, distrusse le mura, e poi uccise tanti, portò in cattività tanti, ma fu veramente una sciagura tremenda quella che Dio abbatté appunto su Gerusalemme. Gerusalemme, la città del grande re. E allora che cosa voglio dire con questo? Guardate che Dio sta esercitando ancora oggi i giudizi che esercitava nell'antichità e in mezzo al suo popolo, che è la Chiesa di Dio, ossia l'Israele di Dio. Gli ebrei sono il popolo che Dio ha preconosciuto, però loro non riconoscono, non credono che Gesù è il Messia, quindi non sono nati da Dio. Non sono figlioli di Dio, ma adesso c'è l'Israele di Dio, formata da tutti quei giudei, piccolo residuo, da tutti quei gentili che appunto credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Bene, questo è il popolo di Dio, l'Israele di Dio, la Chiesa di Dio. E cosa pensate che il Signore si compiaccia dell'iniquità che c'è in mezzo al suo popolo? No, fratelli nel Signore. Il Dio non si volge dall'altra parte, fa finta di non vedere, no? Il Dio guarda attentamente, ascolta attentamente e appunto ha posto le sue sentinelle per avvertire, per suonare la tromba. Ma poi il Signore naturalmente, quando vede che i ribelli non si ravvedono e non si convertono, e allora manifesta la sua ira e manda i suoi giudizi sulle teste di coloro che appunto si prendono la parola di Dio e se la gettano dietro alle spalle. E quindi nessuno si illuda, nella chiesa di Corinto, non pochi si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna. E sapete cosa il Signore fece? Li giudicò, li punì. Infatti dice così: per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Vedete dunque, i giudizi di Dio si erano abbattuti sulla chiesa di Corinto per questa ragione, perché l'Apostolo Paolo ha detto che chi mangia mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. E infatti bisogna avvertire, i conduttori devono avvertire quando appunto stanno per ministrare la cena del Signore dei rischi a cui vanno incontro coloro che si accostano in maniera indegna alla cena del Signore. C'è il giudizio, è certo il giudizio, non è probabile, è sicuro, perché chi mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Questo per dire appunto e ribadire che il nostro Dio non è cambiato. Quelli che vi presentano un Dio diverso da quello dell'Antico Testamento non conoscono il Dio, non lo conoscono. Parlano di Dio ma senza conoscerlo e si illudono gli altri, facendo credere appunto una menzogna, cioè quella che Dio non castiga il suo popolo, e invece Dio castiga, e come se castiga, flagella, corregge. Bisogna veramente dare gloria a Dio per veramente la disciplina che il Signore infligge al suo popolo, perché veramente abbiamo un Dio fedele, un Dio che ci ama, non è un Dio che ci odia, perché noi siamo suoi figlioli, è un Dio che ci ama. Quando si sente dire Dio è amore, ora è scritto Dio è amore, ma guardate che Dio è amore non significa che Dio non ci corregge, anzi significa proprio questo, che tra le manifestazioni d'amore di Dio verso di noi c'è anche la correzione, c'è anche il flagello, è questo che molti ancora non capiscono che è proprio perché Dio è amore che ci corregge, ma se Dio non ci amasse, ma ci correggerebbe? No, non ci correggerebbe, e invece ci corregge perché ci ama, corregge colui che egli ama. E allora, dato che la Sacra Scrittura ci chiama amati dal Signore, sapete che noi siamo amati dal Signore? Rallegriamoci, fratelli, siamo amati da colui che ha creato tutte le cose. Allora noi siamo amati da lui, amati, e allora il Signore ci corregge. E allora non dovremmo essere noi veramente del continuo riconoscenti verso Dio per questo grande amore che ci sta manifestando durante questo pellegrinaggio, correggendoci? Sì, dobbiamo essere veramente riconoscenti a Lui. Veramente io sono felice. Sapete, talvolta penso alla disciplina che mi diede mio papà. Mio papà mi corresse quando ero un giovinetto, quando ero adolescente, e mi corresse. Usò la verga. Dice che la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga dalla correzione allontanerà da lui. Effettivamente è così. Cioè il bambino ha la follia attaccata al cuore, allora la verga della correzione del genitore poi l'allontana da lui la follia. Ebbene, ricordando appunto quando mio papà mi puniva, devo dire che quelle punizioni mi hanno giovato molto. Mi hanno giovato molto già ancora prima che io mi convertissi, perché quelle punizioni, quelle correzioni, mi tennero lontano da cattive compagnie, mi tennero lontano da certi vizi, da certe vie che voi sapete quando si è adolescenti è molto facile prendere. E io oggi lo riconosco. Al tempo ancora non potevo capirlo, non avevo la maturità necessaria per capirlo, ma adesso lo capisco. E così, vedete, è Dio. Ci dobbiamo veramente umiliare davanti a Dio e riconoscere che il Signore veramente ci impartisce la sua disciplina per l'utile nostro. Io lo posso dire veramente questo, anche veramente del Signore. Il Signore veramente mi ha corretto. Mi ha corretto per l'utile mio. E io lo ringrazio, lo celebro, lo magnifico. Perché con la correzione si matura. Con la correzione si matura. Invece ci sono quelli che proprio della correzione del Signore non vogliono sentire parlare. Miseria e vergogna a chi rigetta la correzione. Ma chi dà retta alla riprensione è onorato, quindi accettate la correzione, non indurite il vostro cuore, fratelli, quando il Signore vi corregge, non indurite il vostro cuore, ma semmai ravvedetevi, esaminate voi stessi, ravvedetevi e abbandonate il peccato. E il Signore avrà misericordia di voi, perché dice che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Capite? È una cosa meravigliosa essere corretti dal Signore, essere flagellati dal Signore, perché veramente in tutto ciò vediamo veramente il suo amore. Ma chi è che vede in tutto ciò il suo amore? Chi ha occhi per vedere, ma non tutti hanno occhi per vedere, non tutti hanno occhi per vedere. È così, troppo ci sono quelli che sono stati accecati dalle tenebre, si sono messi a camminare nelle tenebre, non vedono, anche quando il Signore li corregge, non vedono che il Signore li sta correggendo, anzi. Sapete una cosa, ci sono quelli che la disciplina del Signore la scambiano per gli attacchi del diavolo. Siamo sotto attacco da parte di chi? Del diavolo! E perché? Ma no, ma non è così, cioè praticamente questi si danno al male, no? Si danno al male, ci sono credenti, no? Che si danno al male, si abbandonano al male, e poi Dio li castiga e quando naturalmente poi Dio li scaraventa a terra, li avvilisce, cosa dicono? Il diavolo mi attacca, sono provato come lo fu provato il giusto Giobbe, ma esamina le tue vie, ma non lo vedi che tu non è che stai camminando come camminava Giobbe, ma non lo vedi cosa sei diventato, servendo il peccato, non lo vedi cosa sei diventato? Ma quale Giobbe? Ravvediti, convertiti fino a che sei in tempo. Vi ricordate queste parole di Pietro nella sua seconda epistola? Adesso ve le voglio leggere, perché veramente sono parole molto importanti. Dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Avete notato? La pazienza del Signore, La pazienza del Signore verso di noi. Fratelli, guardate, qui si sta rivolgendo ai santi. Non si sta rivolgendo a quelli di fuori, ma a quelli di dentro, lo ripeto, egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi la pazienza del Signore nostro è per la nostra salvezza. Allora, quando uno si dà al male, deve sapere questo, che il Signore è paziente, Il Signore è paziente. Gli dà del tempo per ravvedersi, ma attenzione. Attenzione, perché il tempo non è illimitato. C'è un tempo che poi lo stabilisce il Signore. Ma attenzione, perché coloro che poi muoiono nei loro peccati vanno in perdizione. Infatti, vedete cosa dice qua? Non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Jezebel non volle ravvedersi della sua fornicazione. E il Signore cosa fece il Signore? Lo sapete che cosa fece? La gettò sopra un letto di dolore e uccise i suoi figlioli. Infatti Gesù disse: metterò a morte i suoi figlioli. Capite? Quindi il Signore è paziente. A voi che vi siete abbandonati al male, ve lo ripeto, il Signore è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi ravvedetevi, umiliatevi nel cospetto del Signore. Il fatto che Dio vi stia punendo è perché, appunto, il Signore è paziente, il Signore è paziente, però se vede che appunto voi non vi volete ravvedere, poi vi punisce, sono dolori quando il Signore punisce. Alcuni pensano: no, ma Dio non mi sta punendo. E che significa? Che non ti punirà mai? No? Vada bene, il Signore è paziente come fu paziente verso Jezebel. Ma poi quando il tempo scade, poi arriva, che cosa arriva? Arriva la punizione di Dio. E poi coloro che muoiono nei loro peccati dove vanno? Vanno in perdizione. Quindi io vi dico questo: prestiamo attenzione alla voce del Signore. La massima attenzione. C'è scritto: oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Perché è scritto? A chi è rivolto questo? È rivolto a noi. È rivolto a noi anche questo monito. Quindi, fratelli nel Signore, temiamo il Dio e non diamo ascolto a coloro che appunto dicono: ma Dio non castiga nessuno, non castiga i suoi figlioli. No, non è così. La scrittura invece insegna proprio questo, che Dio castiga. Ci castiga per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Che il Signore vi continui a fortificare nell'uomo interiore mediante lo Spirito suo, che il Signore faccia sì che il vostro amore abbondi in conoscenza, affinché discerniate il bene dal male, affinché approviate le cose migliori, affinché siate ripieni di frutti di giustizia. Che il Signore veramente continui a proteggervi, a darvi veramente sapienza per intendere quale sia la sua volontà. Che il Signore veramente vi continui a fare del bene in ogni momento. Ma ricordatevi, non fate poca stima della disciplina del Signore e non vi perdete d'animo quando siete da Lui ripresi, perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.